Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! So, we're here with a comrade from the Anarcho-Syndicalist Workers Union, FAU, in Berlin. And you had a worker struggle recently at a vegan pizzeria. And it would be nice if you could tell us about this conflict, how it started, how it developed. Io sono un ex lavoratore in lotta di Sfizi Veg Pizzeria. Sfizi Veg Pizzeria è una pizzeria vegana che usa una simbologia di sinistra, espone anche quella che è un'idea di sinistra, diciamo un'immagine completa anticapitalista, che alla fine serve solo a nascondere quelle che sono le condizioni di sfruttamento che ci sono all'interno di questo posto. What happened so that you were fired? Il 16 novembre io e un'altra collega siamo state licenziati senza una reale motivazione. Uno dei padroni ha umiliato con insulti noi lavoratori e siamo stati licenziati senza seguire appunto quelle che sono la corretta modalità di licenziamento. Inoltre, dopo il licenziamento, noi abbiamo iniziato con la nostra azione sindacale contro questo posto, rivendicandoci e reclamando il nostro diritto al lavoro, che ci è stato negato, anche perché a in Germania c'è una legge che dice che un'azienda con meno di 10 dipendenti ha più possibilità di licenziare facilmente i lavoratori e non riprenderli indietro a lavorare. Quindi siamo stati licenziati senza ragione, senza reali motivazioni. Dopo qualche giorno, dopo la nostra azione sindacale, loro hanno ufficializzato il licenziamento, ma le ragioni scritte sul licenziamento hanno penalizzato i lavoratori per vari motivi. Uno dei casi è stato appunto quello di non poter avere accesso per 3 mesi alla disoccupazione, perché le ragioni che erano state scritte sul licenziamento incolpavano il lavoratore di aver fatto qualcosa di eclatante che impedisse la continuazione del rapporto di lavoro e che quindi hanno fatto un licenziamento straordinario, e questo ha portato a tutta una serie di penalizzazioni come quella appunto di non riuscire a prendere disoccupazione per 3 mesi, ma anche non obbligavano il datore di lavoro a pagare il mese di dicembre ai lavoratori e le ferie. Some days ago you won the case. And what was the strategy you applied and what were your demands? Dire anche che aggiunge anche che di sicuro la strategia dei padroni contro i lavoratori è stato un attacco agli attivisti anarcosindacalisti che erano all'interno di questo posto, che da tempo cercavano di rivendicare dei diritti lì dentro, come il diritto a avere delle malattie o appunto combattere quello che era la situazione di mobbing e di pressione che mettevano ogni volta sui lavoratori. La strategia che abbiamo applicato semplicemente è stata, prima cosa, quella di portare fuori una lotta politica contro questi locali che usano una simbologia di sinistra e per fare marketing, ma in realtà poi ci sono le stesse dinamiche del capitalismo all'interno e di sfruttamento sui lavoratori. Quindi la strategia che abbiamo creato appunto è creare una lotta politica che portasse l'attenzione su questo, ma anche a quello di rivendicare i nostri diritti, come cambiare le ragioni del licenziamento, avere diritto ai nostri soldi, ma una anche delle rivendicazioni politiche che abbiamo portato all'esterno ed è stata molto importante, anche se non siamo riusciti a ottenerla, è stata appunto quella di chiedere le scuse ufficiali dal padrone, perché un insulto a uno è un insulto per tutti ed era importante per noi lavoratori rimandare appunto l'umiliazione che loro hanno inflitto a noi indietro. Abbiamo fatto azioni di picchetto all'esterno, di campagna informativa contro di loro. Abbiamo partecipato a uno degli eventi dei Berlin Migrant Striker, che è un collettivo di migranti italiani qui a Berlino. Abbiamo vinto la nostra battaglia in tribunale, diciamo con la negoziazione, però la cosa che non siamo riusciti a ottenere appunto sono le scuse ufficiali, perché sapevamo che era una rivendicazione del tutto politica, che però è anche nuova per una realtà come Berlino. Alla fine siamo soddisfatti di quello che abbiamo creato e l'attenzione che abbiamo portato e l'analisi politica che abbiamo iniziato qua a Berlino e adesso abbiamo in programma appunto di abbiamo altre vertenze sulla ristorazione qua a Berlino. Abbiamo vari casi di lavoratori migranti che hanno avuto problemi in questo settore, di salari non pagati, di ferie e malattie anche non pagate o licenziamento ingiusto. Adesso abbiamo in programma di fare un evento per inizio febbraio, appunto per unire le varie vertenze e per portare avanti il dibattito pubblico sulle condizioni di sfruttamento nel settore della gastronomia qua a Berlino. Inoltre abbiamo in programma di creare una sezione gastronomia appunto nel sindacato, nel FAO. To finish this interview, could you tell us a bit about the situation of foreign workers, maybe even Italian workers in Berlin and the struggle? Sicuramente possiamo dire che per un migrante le condizioni qua a Berlino sono molto molto complicate. Quando si arriva qui ci si rende conto che è come stare in un mondo nuovo ma con le stesse condizioni che hai lasciato, e di sicuramente di nuovo l'isolamento, soprattutto nel momento iniziale, il problema della lingua, il problema di non sapere le leggi, il problema della casa, il problema appunto di integrarsi, anche il problema dello sfruttamento e del razzismo. È importante per tutti i migranti organizzare se stessi, organizzarsi insieme agli altri in strutture di supporto, che per fortuna Berlino ne offre abbastanza, organizzarsi, stare insieme, supportarsi a vicenda e entrare anche nell'ottica che bisogna lottare per arrivare a dei risultati. E l'esperienza che stiamo vivendo qua come migranti nell'esempio che la lotta paga, e paga in più ambiti della nostra vita. Grazie mille. Grazie a voi per l'intervista.